Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi in primo piano la nostra intervista esclusiva al ministro degli esteri Franco Frattini, che dichiara: provo tristezza per i dati sulla nuova emigrazione raccolti da Giovani Talenti. Tra poco la ascolterete. Lo sapete che alla Commissione Europea lavorano 2573 funzionari italiani e che per numero i nostri sono inferiori solo a quelli del Belgio, sopravanzando Francia e Germania? Persone valide dal profilo internazionale, spesso dimenticate dall'Italia. Oggi andiamo nel cuore delle istituzioni comunitarie. Mi chiedevano: lei ha laureato in economia? Sì, ma non ha il diploma in ragioneria? No, il liceo scientifico. Perché non ha fatto il tirocinio per commercialista? Mi dicevano: no, non abbiamo niente, se almeno avesse il diploma di ragioneria. Queste le peripezie italiane di Carmela Asero, 34 anni, ora funzionaria alla Commissione Europea. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Un notiziario oggi d'eccezione con l'intervista al ministro degli esteri Franco Frattini. Prima però vi ricordiamo che, secondo Banca Italia, l'occupazione non riparte e mostra una riduzione più marcata per i giovani e che, per l'Istat, in Italia un giovane su cinque non studia né lavora, un primato europeo. Ora però l'intervista a Frattini, che commenta così l'esodo dei giovani talenti italiani certificato negli ultimi mesi da questa trasmissione. Siamo certamente in ritardo, stiamo recuperando il tempo perduto nella capacità di attrarre o di mantenere l'eccellenza italiana, i giovani talenti italiani. Certamente stiamo investendo sulla nuova università, sulle nuove prospettive per i giovani, ad esempio al sud, e ovviamente per la ricerca. Si tratta di recuperare quel tempo che negli anni passati si è perduto. Lei probabilmente ha visto i dati che ha raccolto Giovani Talenti in questi mesi. Certo. L'hanno impressionata? Che effetto le hanno fatto? Mi hanno fatto un effetto di tristezza per l'incapacità di un grande paese come l'Italia di trattenere i suoi giovani migliori. Devo dire, viaggiando molto per il mondo, quella tristezza si trasforma in orgoglio quando vedo giovani italiani che occupano posizioni di assoluta primazia e di prestigio in laboratori di ricerca o in istituti tecnologici all'avanguardia nel mondo. L'Economist ci ha ricordato qualche giorno fa che il saldo netto tra immigrazione e immigrazione qualificata in Italia è negativo, siamo gli unici tra i grandi paesi. Come invertire questo trend, se si può fare ancora? Dobbiamo innanzitutto dare delle prospettive di sviluppo per i giovani che escono dall'università. Vi è poi una cultura del merito che in Italia si deve affermare. Da ultimo, guardando al Mezzogiorno, il piano per il Sud offre e offrirà delle opportunità che credo meriteranno per molti giovani l'opportunità di rimanere e di non partire. Ministro, a giugno nella prima intervista ha detto: proveremo a censire i giovani talenti italiani. A distanza di 7 mesi avete avviato qualche progetto, state per farlo? Lo abbiamo fatto e ogni 3 mesi pubblichiamo sul sito del nostro ministero una pubblicazione che si chiama Winning Italy, l'Italia che vince. E in questa Italia che vince ci sono proprio le storie dei giovani talenti italiani. Li abbiamo trovati, li troviamo, ogni 3 mesi li abbiamo censiti e ne troviamo sempre di più. A livello di flussi invece, di numeri? A livello di flussi il flusso continua ad essere negativo, sono più quelli che partono che quelli che rientrano. Per il momento comunque non c'è l'idea di un censimento, diciamo, di questi flussi o di italiani che vanno all'estero? Abbiamo dei dati che raccogliamo da fonti diverse, non c'è un censimento ufficiale del governo italiano, ma noi riteniamo i dati che abbiamo a disposizione dati credibili. Dove trovarli? In alcuni casi sul nostro sito ci sono molti dati, altra cosa è ovviamente fare un rapporto statistico ufficiale. Credo che l'Istat ci potrebbe pensare. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta a Bruxelles, capitale europea, città che abbiamo visitato con una certa frequenza negli ultimi mesi. Oggi facciamo ingresso dalla porta principale delle istituzioni comunitarie. Nome: Carmela. Cognome: Asero. Età: 34. Città di origine: Catania. Studi: laurea in economia, master in studi diplomatici e master in business. Anno in cui hai lasciato l'Italia: la prima volta per lavoro nel 2002. Per andare dove? Atlanta, negli Stati Uniti. Perché? Dare un'occhiata ai trend futuri. Quale lavoro svolge attualmente? Scientific Project Officer. Dove? Alla Commissione Europea a Bruxelles. Tornerai? Non credo, soprattutto nel contesto attuale.

fu difficile trovare lavoro, era più difficoltoso trovare un lavoro in linea con le proprie competenze, perché i giovani europei in genere a parità di età hanno una solida esperienza, perché finiscono l'università molto presto rispetto agli italiani. Però trovai facilmente un lavoro, diciamo, di transito alla Sony con uno stipendio regolare. E alla fine arriva la grande occasione, superi due concorsi per agenti contrattuali presso le istituzioni europee, inizialmente lavori come Communication Officer al Comitato delle Regioni, poi dal novembre del 2008 riapprodi alla Commissione Europea come Project Officer. Molto in breve, di cosa ti occupi adesso? Mi occupo di grossi progetti finanziati dal settimo programma quadro per le grandi infrastrutture ICT dedicate alla ricerca scientifica, quindi la velocissima rete europea Giant, griglia di calcolo, supercomputer, eccetera. Insomma, un incarico di responsabilità a 34 anni. Cosa vedi quando torni in Italia? È vero che i tuoi amici ti consigliano di restare in Europa? Sì, mi consigliano di restare in Europa perché il sistema è ingessato, molti miei amici lavorano precariamente, spesso devi chiedere come favore al politico di turno l'accesso a posizioni che all'estero ottieni su base competitiva e in considerazione delle competenze. È democrazia questa? Lascio la domanda in sospeso. Tu citi nell'ordine salario, servizi e opportunità di crescita come fattori di superiorità del centro-nord Europa rispetto all'Italia. A Bruxelles c'è, diciamo, un costo della vita molto abbordabile rispetto alle altre capitali europee, i salari vanno dal 50% al doppio che in Italia per le stesse funzioni, eppure in Belgio l'imposizione fiscale è elevata. A Bruxelles c'è una tassa comunale modica per un servizio efficiente di raccolta rifiuti, ottimi servizi per la famiglia e infanzia, abbiamo metrobus, tram, servizi di car sharing, stalli con le bici pubbliche. Domanda a diritto, Carmela, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va, cosa cambieresti e come? Sistema abbastanza chiuso su se stesso, autoreferenziali, con delle corporazioni che innalzano barriere all'ingresso e avanzamenti che sono legati spesso alla fedeltà politica e ai legami familiari, quindi occorre cambiare atteggiamento verso la competizione, il vecchio motto, diciamo, del vinca e migliori in un contesto con delle regole condivise e rispettate per avere maggiori opportunità per una larga fetta, diciamo, di persone, quelle più dinamiche e ambiziose. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Carmela Asero, 34enne funzionaria della Commissione Europea a Bruxelles. Carmela è giunta in Belgio al termine di un percorso molto internazionale che l'ha portata prima a fare esperienze di lavoro negli Stati Uniti, poi a Parigi, infine a Bruxelles, dove dopo vari impieghi è approdata alla Commissione. In Italia il suo curriculum dal profilo internazionale non è mai stato veramente compreso, al punto che qualche azienda avrebbe preferito trovarsi di fronte una diplomata. Eccolo, di lavoro. E ci raggiunge ora in linea il professor Andrea Pierucci, a lungo capo unità presso il segretariato generale della Commissione Europea. Negli ultimi anni ha ricoperto anche il ruolo di capo di gabinetto alla presidenza del Comitato Economico e Sociale ed è anche professore a contratto presso l'Università di Napoli. Buongiorno, professore. Buongiorno. Lei ha un passato veramente ricco presso le istituzioni europee, ha lavorato quasi in tutte. Quanti giovani come Carmela si è visto passare davanti, motivati e dalla forte apertura internazionale, ovviamente giovani italiani? Effettivamente ho lavorato in diverse istituzioni per circa 30 anni. Ho visto passare davanti a me, sia come funzionario sia come professore dell'Università all'Orientale di Napoli, molti giovani che avevano una forte motivazione per andare all'estero, per lavorare nelle istituzioni europee, per due ragioni principali. La prima è che certamente ci sono dei giovani che credono che l'esperienza europea sia un'esperienza da affrontare, sia un'esperienza positiva per il futuro. E poi per la questione del lavoro. Insegnando come insegnato a Napoli, naturalmente la questione del lavoro è molto importante, molti giovani cercano lavoro venendo a Bruxelles. Qui scatta la mia domanda, professore. Quanto l'Europa, secondo lei, è stata ed è tuttora un'ancora di salvezza attraverso i suoi programmi di maggior successo, Erasmus e Leonardo, per i nostri giovani più esterofili? Giovani che in Italia non trovano adeguate uscite di emergenza in grado di soddisfare le loro ambizioni. Prima di rispondere, però, le chiedo di ascoltare insieme a noi la risposta che sullo stesso tema ci ha dato il ministro Franco Frattini, già vicepresidente della Commissione Europea. In alcuni casi lo è. Devo dire, nei 3 anni e mezzo che ho vissuto in Europa, ho visto tanti giovani italiani anche tentare prove importanti, selezioni per l'ingresso alla Commissione Europea, al Parlamento Europeo, in altri organismi dell'Europa. Devo dire che la competizione resta sempre più dura, in molti casi non vincente per i nostri. Abbiamo una concorrenza molto agguerrita di giovani e giovanissimi che vengono dai paesi dell'est e lì devo dire la carta vincente è che questi giovani hanno una scolarizzazione eccellente, in alcuni casi migliore della nostra, e soprattutto parlano le lingue. Professor Pierucci? Non credo tanto alla questione di una uscita di emergenza, perché alcuni naturalmente cercano lavoro a tutti i costi. Altri scelgono la carriera e il movimento verso altre sedi rispetto a quelle di origine, verso Bruxelles, dove c'è, fra virgolette, l'Europa. La scelgono sia come aspettativa generale di vita, cioè per cercare una diversa collocazione, sia anche qualche volta con la speranza di farsi abbastanza le ossa per poi poter tornare in Italia, e qui hanno qualche delusione. Ce la spieghi questa delusione? Questa delusione è che molto spesso i giovani arrivano con una formazione europea, arrivano con un qualche bagaglio lavorativo importante e hanno difficoltà a trovare lavoro, specialmente nelle regioni del sud, dove il lavoro ce n'è poco. E soprattutto c'è poco lavoro qualificato, perché naturalmente mancano le imprese che potrebbero proporlo. A Bruxelles fanno un'esperienza molto importante, è vero che c'è una concorrenza molto accanita ed è vero anche che i nostri ragazzi hanno spesso l'handicap linguistico. L'altro handicap che hanno è quello della mancanza di possibilità di esperienze professionalizzanti dirette durante o immediatamente dopo il programma di studio. Non voglio però essere pessimista, perché i nostri giovani, una volta che sono arrivati a Bruxelles, si fanno onore e riescono anche a raggiungere risultati molto positivi. Grazie al professor Andrea Pierucci. E per chiudere, domanda di rito a Carmela Asero: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie d'uscita, a un espatrio? Di curare le lingue, usare la rete anche per entrare in contatto con chi ha fatto questa esperienza. Suggerisco di contattare in questi casi Italians Online, per esempio, altre associazioni, di utilizzare i network sociali come LinkedIn e accompagnare il proprio percorso di studio con skill complementari. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi andiamo a indagare tra i nostri giovani avvocati che decidono di specializzarsi negli Stati Uniti. Paolo Strino, presidente dell'associazione ALMA. L'associazione sarà fondata nel 2003, conta 500 iscritti intesi come professionisti che hanno conseguito una seconda laurea in giurisprudenza o un master in legge negli Stati Uniti. È un'associazione che nasce dalla iniziativa di alcuni studenti di giurisprudenza presso alcuni master statunitensi e raccoglie la stragrande maggioranza delle università americane. Quanti sono i giovani avvocati che vengono a studiare e a lavorare negli Stati Uniti e perché scelgono gli Stati Uniti? C'è una media di circa 50 avvocati che ogni anno vengono a completare un master in giurisprudenza presso le maggiori università statunitensi. Le ragioni sono varie, sicuramente c'è una grandissima voglia di specializzazione e c'è una grandissima voglia di internazionalizzazione. Poi è chiaro che nell'associazione orbitano tutta un'altra serie di professionisti che sono professionisti che semplicemente vengono per un periodo di formazione lavorativa negli Stati Uniti, che essenzialmente fanno un periodo di training presso degli studi internazionali, lì chiaramente i numeri sono più ampi. C'è interesse da parte dei giovani avvocati o laureati in giurisprudenza italiani a venire negli Stati Uniti a studiare o lavorare? E se sì, questo ha a che fare anche con una difficoltà di sbocchi lavorativi in Italia? Sì, senza dubbio. L'America, insomma, è ancora vista, come molti altri paesi esteri, come un posto di opportunità, e sicuramente per alcuni, insomma, si è presentato come tale. È chiaro che oggi l'economia non permette più quella mobilità, insomma, che permetteva 3 anni fa, ma sicuramente c'è un problema di saturazione del mercato dei professionisti, ma non è specifica soltanto per gli avvocati, insomma. In Italia c'è una difficoltà per i giovanissimi nell'introdursi in maniera soddisfacente nel mercato del lavoro, ed è chiaro che per coloro che hanno l'opportunità di completare gli studi negli Stati Uniti, queste opportunità poi anche al rientro migliorano sensibilmente, insomma. Questa loro competenza internazionale favorisce poi un loro ritorno ad alto livello in Italia o poi è più conveniente restare negli Stati Uniti? Il concetto di alto livello, che è legato all'interpretazione, sicuramente esistono molte più opportunità professionali quando si ritorna in Italia dopo il master in legge, perché insomma il mercato, soprattutto quello dei grandi studi legali associati, ha sensibilità verso questa formazione. È chiaro poi che il rientro in Italia non è necessariamente ad altissimi livelli. Le attività di ALMA quali sono le principali? Ci occupiamo sicuramente di organizzare eventi e conferenze, e poi abbiamo anche degli eventi di networking, e poi per tutto l'anno ci occupiamo anche di fornire un minimo di assistenza e di aiuto ai giovanissimi su come entrare nelle scuole americane. Per maggiori informazioni www.llm.it.